Letture di Radio 24. Un'intera città di senza tetto. In Italia si pensa ci possono essere fra gli 80.000 e i 100.000 clochard distribuiti fra città e provincia. E ancora, secondo l'Istat, il 20% delle famiglie vive in case fortemente danneggiate e in gravi difficoltà economiche. Sentiamo in questo articolo tratto da Repubblica gli ultimi dati sui cosiddetti invisibili. È un esercito fantasma, ogni anno più grande. Difficile contare gli invisibili, tra gli 80 e i 100.000. Sono i clochard d'Italia, per lo più maschi, spesso stranieri, in strada da almeno 3 anni. E non mancano i bambini. I senza tetto sono in aumento, sostiene Paolo Pezzana, presidente della Federazione Italiana Organismi per Persone Senza Dimora. La crisi sta infatti colpendo i soggetti più deboli, anziani, ma anche famiglie con figli e padri separati. Tra i nuovi poveri, i minori. Secondo le rilevazioni Eurostat, in Italia un bambino su 4 è a rischio povertà e ben 649.000 minorenni non riescono ad avere accesso ai beni essenziali. E ancora, l'Istat denuncia che il 20,6% delle famiglie vive in abitazioni con strutture fortemente danneggiate e l'11,3% è in arretrato nel pagamento dell'affitto o del mutuo. Quello degli homeless è storicamente un fenomeno urbano, ma negli ultimi anni sta dilagando anche in provincia, dove il 70% dei senza tetto è immigrato. Stime nazionali? A giugno si concluderà l'indagine condotta dal Ministero del Welfare. Per ora, spiega Pezzana, valutiamo tra i 50 e i 70.000 clochard, limitandoci ai senza tetto veri e propri e agli ospiti dei centri d'accoglienza. Ma la stima arriva a 100.000 persone, comprendendo coloro che vivono in baracche e bidonville. A fotografare gli invisibili ci prova anche il Viminale. Il 17 luglio 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Interno sul Registro Nazionale delle Persone Senza Fissa Dimora. Titolare del Registro Nazionale è la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Come funziona? Ai singoli comuni spetta comunicare via internet al Viminale i dati dei senza tetto residenti sul proprio territorio. Alcuni si sono già mossi. Milano, per esempio, ha censito 1.100 homeless, distribuiti tra 24 sedi della città. Ma è solo la punta dell'iceberg. Oggi, se una persona non ha casa, può chiedere di eleggere il proprio domicilio presso un'associazione o presso la casa comunale, spiega Pezzana, e così viene iscritto all'anagrafe con un domicilio fittizio e può usufruire dei servizi comunali. Qualche esempio? A Roma i senza tetto vengono registrati in via Modesta Valenti, a Torino in via della Casa Comunale, tutte vie che esistono solo sulla carta, a Milano presso varie associazioni, come la Caritas. Molti però non chiedono l'iscrizione, oppure non possono chiederla, perché immigrati irregolari. Gli elenchi che i comuni consegneranno al Viminale saranno incompleti, avverte Pezzana, ma speriamo utili ad avviare un'adeguata politica degli alloggi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Famiglie, stranieri e anziani, l'esercito dei nuovi clochard, di Vladimiro Polchi, pubblicato da Repubblica di martedì 11 gennaio. Letture di Radio 24. Psicopolizia la chiamava George Orwell nel suo celebre romanzo 1984. Ne facevano parte anche i bambini ed era il principale strumento di controllo del regime, predisposto a individuare ogni forma di dissenso dal Big Brother. Siamo ben lontani dalle surreali pagine di quel romanzo, ma qualche volta libri simili possono farci pensare anche a quello che ci circonda ogni giorno. Massimo Gramellini, nella sua rubrica Buongiorno sulla stampa, ci racconta una storia di piccole spie. Una maestra elementare di Aosta si appisola durante il compito in classe. Le belve dietro i banchi estraggono l'arma letale, il telefonino, e documentano la pennichella dell'insegnante per poterla spiattellare ai genitori e alla preside, che sospende la bella addormentata. Aiuto! Cominciamo col dire che quando una maestra si appisola, e da che mondo è mondo le maestre ogni tanto si appisolano, un bambino ben educato si mette a copiare il compito del compagno di banco o schizza in corridoio per fare a botte con gli amichetti. Invece, quei microsadici non muovono un muscolo e sferruzzano ossessivamente sui telefonini come reporter d'agenzia, pur di immortalare la defiance della disgraziata. E i genitori? Intanto è mostruoso che non trovino mostruoso armare delle creature di appena 8 anni con la pistola dei ficcanaso. E quando poi le creature gli sventagliano sotto il naso lo scoop del secolo, invece di redarguirli per la mancanza di rispetto nei confronti della signora maestra e requisire loro l'arma che fanno, corrono dalla preside a chiudere il cerchio della delazione, imponendole di fatto la sospensione della reietta. L'eccesso di tecnologia abbinato alla carenza di autorità sta producendo una genia di sfrenati spioni. Nessuno può più sentirsi tranquillo in nessun posto. Un clic di tuo figlio e finisci immortalato su Facebook, mentre saccheggi in mutande il frigo di casa. Urgono contromisure alla modernità. Che in ogni scuola si approntino stanze foderate di metal detector, in cui una maestra possa andare ogni tanto ad appisolarsi in pace. Avete ascoltato la lettura del Buongiorno di Massimo Gramellini, pubblicato dalla Stampa di mercoledì 12 gennaio. Cosa significa fare informazione oggi? È quanto si chiede il giornalista Christian Rocca, che commenta, pochi giorni dopo la strage di Tucson, il modo in cui le notizie, già dopo pochi attimi dopo l'attentato, siano rimbalzate sul web, attraverso social network e blog, generando anche strumentalizzazioni politiche insensate. Nell'epoca dell'informazione istantanea, gridata e senza riscontri, alimentata a getto continuo sui blog, con i cinguettii di Twitter e dai messaggi su Facebook, gli errori, le imprecisioni, le inesattezze sono inevitabili, quasi necessari e in qualche modo giustificati dalla corsa ad arrivare prima degli altri, dalla smania di raccogliere tutti i particolari possibili, dalla necessità di nutrire la bestia famelica di notizie. La deputata democratica Gabrielle Giffords, obiettivo della strage di Tucson, è stata subito data per morta, per esempio. Sono seguite dichiarazioni di cordoglio ad ampio raggio e anche Barack Obama, leggendo su un foglio evidentemente preparato prima della smentita del decesso, si è rivolto alla deputata al passato. Gabby era mia amica. In questo contesto informativo, in real time, dare le notizie a ritmi rock non è semplice. La percentuale di prendere cantonate è alta, ma è la stampa 2.0 bellezza e non possiamo farci niente. Altra cosa però è analizzare, commentare, giudicare i fatti. Come ha scritto Joel Meares sulla rivista della scuola di giornalismo della Columbia University, merita minore compassione chi invece è corso a interpretare la strage di Tucson con i propri pregiudizi, lenti politiche partigiane e la stessa violenza retorica che si imputa agli avversari. Sarebbe stato il caso di riaprire il dibattito sul facile accesso alle armi in America, in particolare delle armi da guerra come quella usata dallo stragista di Tucson, vietate ai tempi di Bill Clinton, tenendo conto che in certe zone degli Stati Uniti, come nell'Arizona di Gabrielle Giffords, favorevole alle armi private, gli spazi geografici, la vita di frontiera e la lontananza da sceriffi e polizia rende talvolta il possesso delle armi più comprensibile rispetto a quanto possa apparire a New York o in una città europea. Sarebbe stato interessante riflettere ancora una volta sugli istinti apocalittici che da sempre percorrono la società e la cultura americana. Invece no, senza nemmeno conoscere l'identità dell'assassino, e 5 minuti dopo la strage, ci siamo trovati nel bel mezzo della giostra delle accuse, con molti su internet a imputare la strage a un preciso personaggio dell'Alaska, a un movimento specifico, a un agguerrito clima politico. Anzi, a mano che arrivano le notizie, appare sempre meno credibile o movente politicamente riconducibile al dibattito americano o dell'Arizona. Sarebbe bastato, peraltro, documentarsi sulla deputata colpita, una democratica conservatrice che su molti temi, dalle armi all'immigrazione, dalla difesa nazionale alla politica fiscale, dal controllo della spesa pubblica al patriottismo costituzionale, è più vicina alle ossessioni dei Tea Party che all'ortodossia progressista. L'analisi dei fatti, l'interpretazione della realtà, i giudizi sulle cose che succedono, non sono un tweet, sono una cosa seria. I grandi giornali americani, per esempio, hanno aspettato 48 ore prima di pubblicare gli editoriali di commento sulla tragedia di Tucson. Hanno atteso di conoscere i fatti, quei piccoli particolari che nell'era dell'informazione a banda larga, purtroppo, sembrano sempre meno necessari. 2 giorni dopo la strage, gli editoriali dei 5 principali quotidiani americani, quei commenti non firmati che esprimono la posizione ufficiale dei giornali, sono stati unanimi sul fatto specifico di Tucson nell'escludere il movente politico, la responsabilità di Sarah Palin e del dibattito politico al Vetriolo. Il Washington Post ha scritto che sembra un salto logico non provato accusare il clima politico o un individuo o un gruppo particolare di aver incitato l'assassino. Il Los Angeles Times ha spiegato che i commenti irragionevoli circolati sul web sono vergognosi e imbarazzanti e che in questi casi il modo giusto e razionale è quello di fermarsi, respirare profondamente, ascoltare i fatti e soprattutto condannare la violenza nel modo più fermo, specie dopo che le prime informazioni descrivono l'assassino come uno squilibrato, più che come un politico. Il giornale guida del mondo progressista, il New York Times, ha scritto nel suo editoriale che è superficiale e sbagliato attribuire questo specifico atto di un matto direttamente ai repubblicani o ai membri dei Tea Party. Il Times sottolinea con forza come in generale certi estremismi dei Tea Party possono alimentare sentimenti di odio, esaltare i matti e fare male al vivere civile. Il Times ha ragione, e si potrebbero aggiungere le ben più violente campagne contro Bush e contro Clinton. Ridurre la politica a odio dell'avversario, a denigrazione delle idee altrui, a delegittimazione reciproca, è pericoloso, sempre, quando succede a destra e quando capita a sinistra. Ma è altrettanto pericoloso ideologizzare i fatti, anziché analizzarli sine Iraq studio, ovvero con imparzialità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Se a sparare è l'informazione 2.0» di Christian Rocca, pubblicato dal Sole 24 Ore di martedì 11 gennaio.